però era una prova, cava. No, no, mi piace più l'altro. Più tardi, doppio ru! facciano, ma ce ne stanno, Natalino. E gli arrappa, ce ne sta andando, Natalino se ne sta andando. Ciao Natalino, buona serata. Ok, dai, ce ne doppio loro. Strumenti di sì. No. Eia. Ascolta, se mi aspetti riprendo dalla mia postazione, dai. Questo qua mi sono già divertito abbastanza. Dai, dai, riprendo la cambio. Hola. Thank you. Roberto Quadrato, poi è entrato anche Giuseppe e ha chiamato a coso, a Falchetto, che dice c'è la propagazione del vento di spagnoli, e basta, poi io ero lento, stavo ascoltando un pochino, poi l'ho chiuso e non ho sentito più nessuno. Buscano circuito, se no se andate nel canale di sopra, tanto è uguale, no? Andare o negli Alfa o nel 45 non è uguale. Vabbè, adesso cercheremo di fare così allora, perché ma comunque qualcosa già la rimediamo, va. Come voi, non è un problema. Cioè, se andate su, ti ripeto, nel 41, 42, quello va bene. Se andate nel canale Alfa, allora ieri sicuramente eravate nel canale Alfa, perché io ho fatto un giro, cazzo, proprio devo fare nessuno. Sicuramente si è passato nel momento che eravamo negli Alfa, perché succede così che passiamo un momento nell'Alfa, lo facciamo sbollire e poi rientriamo nel canale, ma ieri magari non ci abbiamo neanche pensato perché dopo un po' ritorniamo, ma sicuramente ce ne beccate in quel momento. Guarda, io ti dico, sono uscito alle 9:30, ho acceso, ho fatto un giro, ho aspettato 2-3 minuti a vedere se sentivo qualcuno e niente. Infatti ho fatto anche un paio di chiamate alle 10 e non mi ha risposto nessuno. E niente, aspetto. Poi sono riuscito alle 10 e di nuovo ho fatto un altro paio di chiamate, così nel 41, nel 45, ho fatto nel 10 e non vedo nessuno. Poi sono riuscito alle 10:20, ho fatto di nuovo la stessa cosa, non vedo mai nessuno, allora ho giocato e ho giocato tutto.